Rai, sede regionale per la Sicilia. Va ora in onda Isola Bella, la Sicilia che piace nel mondo. In studio Vincenzo Sottosanti. Aprile 2015, prima puntata di Isola Bella, l'appuntamento del mercoledì in onda alle 12.30 su Radio 1 per conoscere il territorio e la gente laboriosa della Sicilia. Un'isola per molti aspetti meglio conosciuta all'estero che in Italia, che vogliamo esplorare insieme a voi e ai nostri ospiti. Buongiorno, buongiorno a voi tutti da Vincenzo Sottosanti e un saluto a Eliane Scheri, la nostra assistente al programma, e ad Alessandro Spinnato per l'assistenza tecnica. Oggi parleremo di Expo, di opportunità imprenditoriali per chi sceglie la campagna alla città, ma parleremo anche dello stato di salute dell'agricoltura e della pesca, due settori produttivi fondamentali per l'economia siciliana e strettamente connessi tra loro. Una connessione antica quanto l'uomo, come dimostra la storia di Pantelleria, l'isola tra la Sicilia e la Tunisia, raggiunta nella preistoria da coraggiosi navigatori, che introdussero per primi pratiche agricole che nel tempo hanno trasformato un'isola lavica inospitale in un vero e proprio paradiso terrestre. Temi che oggi affronteremo con l'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Nino Caleca. Buongiorno assessore, buongiorno. Benvenuto a Isola Bella. Grazie. Allora, per lei cosa significa parlare di Pantelleria? Beh, significa parlare di un'isola che innanzitutto è il luogo in cui io sono nato. Pantelleria è un'isola per chi viene da fuori, ma per noi che ci siamo nati è un qualcosa che ci portiamo dentro. Pantelleria è il nostro rifugio, è il nostro buon ritiro, un buon ritiro insomma, in cui ci ritiriamo più di una volta al giorno quando le difficoltà sembrano insuperabili. Torniamo nella nostra isola e nella nostra isola riprendiamo le nostre forze. Iniziamo questa prima puntata di Isola Bella da Expo 2015, l'esposizione universale che il 1 maggio aprirà i battenti a Milano e si preannuncia già come il più grande evento mai realizzato sull'alimentazione e la nutrizione. Un appuntamento che accenderà i riflettori del mondo sull'Italia, dove per 6 mesi 145 paesi in rappresentanza del 94% della popolazione mondiale si confronteranno per dare una risposta concreta ad uno dei più grandi problemi dell'umanità, garantire cibo sano e sicuro per tutti gli abitanti della Terra. La Sicilia avrà un suo spazio al Padiglione Italia e parteciperà anche come partner ufficiale di Expo 2015, curando il coordinamento delle attività del cluster biomediterraneo, un'area comune dove 11 paesi dell'area mediterranea celebreranno le tradizioni alimentari e gastronomiche, ma anche la storia e lo stile di vita della dieta mediterranea. Assessore Caleca, in che modo la Sicilia si racconterà al mondo? La Sicilia si racconta al mondo con la sua naturale specificità. Abbiamo scelto il cluster biomediterraneo in aggiunta alla presenza nel Padiglione Italia perché vogliamo non soltanto essere la Sicilia parte dell'Italia, ma in aggiunta vogliamo essere la Sicilia centro del Mediterraneo. Una specificità che arricchisce sia la Sicilia che l'Italia stessa. Siamo lì per rappresentare e coordinare con grande spirito di servizio la presenza del Mediterraneo all'Expo, dei valori che il Mediterraneo rappresenta nel campo della biodiversità e della risposta primordiale al primo bisogno dell'uomo, quello di nutrirsi. Noi rappresentiamo il Mediterraneo, 2000 anni di storia, che passano dalla Sicilia, che lasciano le tracce in Sicilia, e gli imprenditori che io porterò a Expo, che porteremo a Expo del Mediterraneo, rappresenteranno questi valori. Quindi non soltanto la Sicilia, ma la Sicilia punto centrale del Mediterraneo. Ecco, cosa vedremo al Padiglione Italia, ma anche al cluster biomediterraneo? Nel cluster biomediterraneo vedremo come è possibile convivere culture diverse che oggi sembrano anche in alcuni momenti apparentemente lontane, come invece è possibile che queste culture tornino a convivere, come si possano in qualche modo mischiare, si possano in qualche modo contaminare culture, religioni, concetti filosofici, stili di vita che sembrano apparentemente lontane e che invece attorno al cibo possano riunirsi. Penso per esempio al couscous, penso per esempio alla cassata. Noi abbiamo nell'anticipazione fatta a Milano di Expo Gate, che rappresenta l'anteprima della presenza del Mediterraneo Expo, abbiamo dato vita, per esempio, a una cassata che non è più la cassata siciliana, ma è la cassata del Mediterraneo, perché è contaminata, per esempio, con i datteri che vengono all'altra sponda. Tenteremo questa contaminazione fra le culture, a partire dal cibo, perché sia anche un momento in cui si possa parlare di pace nel Mediterraneo. E lo faremo parlando del cibo, lo faremo parlando della pesca, parlando del mare. Ecco, un bilancio di questa esperienza che vi ha visto relazionarvi con paesi culturalmente uniti ma allo stesso tempo diversi dall'Italia. Sì, è un'esperienza sicuramente positiva e che dimostra come quando si torna alle, ripeto, alle risposte primordiali alla vita dell'uomo, alla vita nuda, alla nuda vita, sia più facile trovare momenti di intesa fra vari popoli e varie culture. Attorno al cibo è più facile ragionare con tranquillità, trovare intese e superare difficoltà che sembrano a prima vista insuperabili. Noi abbiamo sempre una grande speranza, per esempio, che possa anche il padiglione della Libia tornare a essere occupato da chi vuole rappresentare quel popolo e quella cultura nel nostro Expo, nel nostro padiglione. Ci speriamo, spereremo fino alla fine che questo padiglione possa essere riempito da chi rappresenta quel popolo. Quindi la Sicilia avrà anche un ruolo diplomatico in tutto questo? Un ruolo di servizio, direi io. Noi non rappresentiamo gli altri paesi, noi coordiniamo con grande spirito di servizio la presenza degli altri paesi. E siamo un primus inter pares, non abbiamo nessuna volontà, come dire, di guidare il Mediterraneo, no, ma metterci a servizio di quei paesi, metterci a servizio dei popoli del Mediterraneo, offrire i nostri servizi a questo Mediterraneo di pace. Assessore Caleca, ci prepariamo ad Expo da 3 anni. La regione siciliana ha investito oltre 3 milioni di euro. Quali benefici economici ne trarrà la Sicilia? Intanto il mio assessorato ha investito 3 milioni di euro ed è una cifra che ritengo assolutamente insuperabile, cioè nel senso che è la cifra definitiva che intendo investire e che investiamo. Quali benefici economici? C'è un beneficio economico fondamentale, che è quello di veicolare nel mondo l'immagine e il brand, come si usa dire, della Sicilia. La Sicilia deve diventare un elemento di riconoscimento nell'ambito di un mercato globale mondiale. Io ovviamente faccio l'assessore, non faccio il commerciante, quindi non vendo prodotti nel mondo, ma vendo un territorio, questo sì, che è la Sicilia. Questo territorio è rappresentato dai prodotti che in Sicilia appunto si producono e che vengono con amore prodotti appunto nella nostra isola. Il mio brand, la Sicilia, diventerà riconoscibile nel mondo e attraverso il riconoscimento di questo brand apriremo la via al commercio internazionale delle eccellenze siciliane. Questo è l'obiettivo. Ovviamente, conoscendo le eccellenze siciliane, poi magari verrà anche la curiosità di capire dove queste eccellenze vengono prodotte e quindi verrà la voglia di visitare ancora di più la Sicilia. Il nostro cluster biomediterraneo è l'unico punto di Expo in cui si vende materialmente il prodotto. Negli altri stand, chiamiamoli stand, negli altri padiglioni la vendita è consentita online, nel nostro cluster si venderà materialmente, cioè nel senso che emetteremo scontrino perché venderemo prodotti. Bene, d'intesa con l'assessore dei beni culturali, l'assessore al turismo e l'assessore allo sviluppo, alla dottoressa Vancheri, abbiamo stabilito che chi acquista prodotti nel nostro cluster con lo stesso scontrino con cui appunto paga questi prodotti, con lo stesso scontrino potrà vedere, venire in Sicilia ed entrare gratuitamente nei musei e nei siti archeologici siciliani. Noi siciliani tendiamo sempre a considerarci migliori del mondo, ma per quanto riguarda l'agroalimentare sono i numeri a parlare. Circa 30 i prodotti siciliani con un marchio d'origine attribuito dall'Unione Europea ed oltre 230 quelli tradizionali riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Un lungo elenco che riflette la straordinaria varietà di paesaggi che giustifica il record mondiale di riconoscimenti attribuiti dall'UNESCO alla Sicilia. Nella nostra regione ricadono 6 siti considerati patrimonio dell'umanità, a cui ci auguriamo tutti si aggiunga presto l'itinerario arabo-normanno. Ma ricordiamo anche gli altri 3 3 riconoscimenti dell'UNESCO per altrettanti patrimoni culturali immateriali, l'opera dei pupi, la dieta mediterranea e, da qualche mese, la pratica agricola della coltivazione della vita ad alberello di Pantelleria. Voliamo quindi in quest'isola, più vicina all'Africa che alla Sicilia, in compagnia di Gabriella Guarnera. Pantelleria è il relitto di un grande vulcano emerso dalle profondità del mare che divide l'Europa dall'Africa. 5.000 anni fa l'uomo è arrivato forse per caso in quest'isola, ma certamente ne ha saputo apprezzare le straordinarie risorse naturali. Per i coraggiosi navigatori preistorici era la perla nera del Mediterraneo, l'isola dell'Ossidiana, il raro e pregiato vetro vulcanico considerato prezioso nella più lontana antichità. L'isola di Pantelleria è storicamente contesa per il controllo militare e commerciale del Mediterraneo, ma è anche un laboratorio naturalistico e culturale insieme, dove la sapienza umana ha saputo esprimersi al meglio, trasformando un'isola inospitale in un vero e proprio paradiso terrestre. Se c'è un luogo al mondo dove comprendere fino in fondo l'antico motto di necessità virtù, questo è Pantelleria. L'isola è priva di sorgenti d'acqua e perennemente attraversata da venti impietosi. Eppure, i nostri più lontani antenati riuscirono ad adattarsi costruendo abitazioni essenziali da musi e muri a secco, manufatti realizzati con l'unico materiale a loro offerto da madre natura, pietre. Semplici pietre sapientemente incastrate l'una con l'altra per costruire ripari e trasformare il suolo vulcanico in generoso terreno agricolo. Pantelleria è uno dei rari luoghi dove l'uomo si è sottomesso alle leggi della natura ed è stato premiato. I Fenici, per primi, iniziarono a produrre vino dolce importando una pratica agricola ripresa dagli arabi, sopravvissuta nei secoli e recentemente proclamata patrimonio culturale dell'umanità, per non dimenticare quell'agricoltura eroica che sta alla base dell'evoluzione dell'uomo. Per ritrovare la strada del vero progresso, quello rispettoso degli equilibri del nostro pianeta, occorre partire da qui, da Pantelleria, un lembo di terra di 83 chilometri al centro del Mar Mediterraneo. Ecco, Assessore, abbiamo ascoltato un po' questa scheda che ci racconta di un'isola dove c'è la storia dell'uomo. È la prima volta che l'UNESCO riconosce una pratica agricola patrimonio immateriale dell'umanità. Non si riconosce la pianta in sé per sé, ma si riconosce la pratica agricola. Si riconosce cioè lo sforzo dell'uomo di ricavare da un territorio apparentemente difficile come quello di Pantelleria, ricavare un bene prezioso, talmente prezioso e talmente di eccellenza da diventare patrimonio dell'umanità. È un riconoscimento non a Pantelleria o soltanto a Pantelleria, è un riconoscimento al Mediterraneo, agli sforzi dei popoli del Mediterraneo di costruire attorno anche alla, come dire, attorno a una volontà di convivere con una natura non sempre facile, di costruire una civiltà che mette insieme capacità dell'uomo e natura. Quindi possiamo parlare di un'agricoltura eroica? È un'agricoltura eroica perché eroico lo sforzo dell'uomo di coltivare in modo tale da non distruggere ciò che la natura ci offre. Noi con questo riconoscimento e con la nostra presenza a Expo, che apriamo valorizzando proprio Pantelleria, vogliamo valorizzare, non lo ripeto, un'isola, ma vogliamo valorizzare la cultura del Mediterraneo, perché è difficile coltivare a Pantelleria, ma è difficile coltivare anche sulle sponde dell'Africa, è difficile coltivare dove manca l'acqua, è difficile coltivare dove il vento è troppo forte, ma quando si coltiva rispettando anche queste difficoltà che vengono dalla natura, si crea quel nettare che è l'uva di Pantelleria, che è quella pianta che dà quel prodotto che diventa appunto patrimonio dell'umanità. È la fatica dell'uomo che viene premiata con questo riconoscimento. Ecco, e ancora oggi l'agricoltura è un'economia su cui si basa l'intera Pantelleria? Sì, si basa Pantelleria, ha storicamente fatto la scelta di puntare soprattutto sull'agricoltura a discapito della pesca, cosa che magari insomma bisognerebbe ripensare. Ecco, noi abbiamo ascoltato uno degli agricoltori che può definirsi eroico, Salvo Murana. Buongiorno signor Murana. Buongiorno. buongiorno a lei, buongiorno. Allora, cosa significa fare agricoltura a Pantelleria oggi? Fare agricoltura oggi più che mai significa rinunciare a una parte di se stessi, per dedicarla a queste piante, a tutto ciò che si alleva, che va dalle orticole alle viti, all'olivo, al cappero, a tutti. È un po' come insegnare al bambino a nuotare mettendogli la mano sotto la pancia. Ecco, Pantelleria vanta una storia agricola millenaria. Cosa è rimasto di quelle pratiche che venivano svolte sull'isola addirittura dai primi navigatori che si avventuravano per il Mediterraneo? È rimasto ciò che abbiamo noi ricevuto in eredità dai nostri genitori, dai nostri nonni, ciò che fa parte del nostro DNA, ciò che fa parte della nostra maniera di vivere, intendere la vita e la vite. Questa pratica ha questo riconoscimento quale bene immateriale della comunità mondiale, che trovo sia molto di più di 10 OCG messi insieme. Ecco, ma Pantelleria non è soltanto vino. No, Pantelleria non è vino, Pantelleria è ambiente, è territorio, è cappere, unici al mondo ad avere 8 petole anziché 5 come tutti gli altri. 5-6, è olio, è tutto, è sapore, è un'officina di sapore. In molte zone di Pantelleria ancora oggi è difficile l'accesso ai motori. Ma motori, per modo di dire, tutto al più sono dei piccoli motocoltivatori, non c'è una meccanizzazione, rimane qui sempre il miglior mezzo per poter accedere ai campi, rimane il cavallo, l'asino, il mulo, quelli sono i migliori in assoluto. Pantelleria produce prodotti di qualità. Indubbiamente che produce qualità, non si può pensare a Pantelleria con una produzione massiva o pensare in Pantelleria la produzione, che so, del tondino o di altre cose similari o la trasformazione del petrolio. Qui vuol dire la concentrazione, il purpurì di tutto in una terra vulcanica di appena la più vecchia di 60.000 anni per arrivare alla più giovane di 3.000 anni, quindi è un concentrato profumi, sapori e saperi. Come si svolge la giornata dell'agricoltore a Pantelleria? Ma non è calcolabile come si svolge la giornata, perché inizia all'albo, prima dell'alba, e finisce abbondantemente dopo il tramonto, quindi si svolge massacrandosi e spaccandosi la schiena. In questo periodo si parla molto di cibo, di ritorno alla natura. Cosa si augura per la sua isola? Per la mia isola, per tutti, mi auguro che la gente rimanga un momentino più attenzionata a ciò che mangia, a ciò che consuma, perché mangiar bene vuol dire star meglio, mangiar bene vuol dire pensare meglio, vedere anche in positivo tutto. E grazie signor Murana, grazie per essere stato con noi a Isola Bella e buona giornata. A lei, grazie. In attesa di Expo si è svolta nel capoluogo siciliano la conferenza agricola euro-mediterranea. I rappresentanti di 30 paesi si sono riuniti a Castello Utveggio per adottare la dichiarazione di Palermo, un documento che mette al centro della politica internazionale lo sviluppo sostenibile e l'innovazione scientifica. Assessore Caleca, la Sicilia si è posta il problema su cosa fare effettivamente per rilanciare l'imprenditoria legata ai prodotti della terra e del mare? Sì, noi l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo, lo faremo pure domani in un momento di riflessione molto allargata su quello che si intende per sviluppo dell'agricoltura in Sicilia. Ci confronteremo all'Università di Palermo con le migliori espressioni sia istituzionali che proprio del mondo della produzione per capire in quale direzione andare. L'agricoltura e la pesca rappresentano, ma soprattutto l'agricoltura, un segmento dell'economia che maggiormente è riuscita, come dire, a resistere alla crisi. Non soltanto a resistere alla crisi, ma a cominciare a risollevarsi da questa crisi. E il fenomeno è comune alla Spagna e alla Francia. Quando si riparte l'agricoltura. La Sicilia con le sue eccellenze sta ripartendo, anche se la politica spesse volte non se ne accorge, sta ripartendo, io dico, nonostante la politica, per fatti oggettivi, perché abbiamo eccellenze, perché abbiamo una nuova classe imprenditoriale nel mondo dell'agricoltura, perché abbiamo una grande volontà di riprendere. Noi vogliamo riflettere proprio su questo e capire cosa la politica può fare non soltanto per non ostacolare questa ripresa, ma se fosse possibile anche per aiutarla. Contemporaneamente daremo vita alla Banca della Terra, che significa mettere a disposizione sostanzialmente gratuitamente ampi settori, ampi territori della Sicilia, beni immobili della Sicilia, a quei giovani che possibilmente con contratti di rete, insomma mettendosi insieme, vogliano sperimentarsi come imprenditori nel campo dell'agricoltura. Ecco, il convegno di domani avrà il titolo Agricoltura 2020, quindi destinato all'agricoltura del futuro. Sì, 2020 è anche l'età che gradirei avessero i giovani che vengono in agricoltura. In Sicilia abbiamo un'età troppo avanzata in agricoltura, bisogna che i giovani tornino. Ecco, ma quali competenze sono richieste oggi per intraprendere questo genere di attività? Intanto grande fantasia, un richiamarsi alle tradizioni, ma mettere insieme queste tradizioni col nuovo mondo. Io mi rivolgo soprattutto a chi è nato nell'era digitale. Bene, questi giovani io vorrei che tornassero nell'agricoltura a fare gli imprenditori, portando innanzitutto la loro fantasia. Abbiamo delle esperienze in Sicilia importantissime. L'unica che ricordo in questo momento, ma perché va ricordata, è quella del mango. Chi l'avrebbe mai detto che il mango in Sicilia ha una caratteristica, una qualità addirittura superiore forse ai paesi di origine? Ecco, quindi un'agricoltura legata alla ricerca e all'innovazione, insomma un bell'impegno. Allora, Assessore Caleca, ci sarà ovviamente occasione di tornare a parlare di questi temi. Intanto grazie per essere stato con noi e buona giornata. Grazie a voi. Seguivo incantato quel lieve virare e le nuvole bianche. La persistente crisi economica che ormai da troppo tempo attanaglia il nostro paese scoraggia i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, ed è comprensibile che molti decidono di cercare fortuna lontano dalla loro terra. Ma c'è chi invece riesce ad essere ottimista, impegnandosi per dimostrare che i livelli d'eccellenza possono essere raggiunti anche in situazioni difficili. È con noi a Isola Bella Corrado Nitto, leader dei Quattro Soldi, una band tutta siciliana. Buongiorno Corrado. Buongiorno a voi, è un piacere, grazie per l'invito. Allora, com'è nata la vostra iniziativa? Ma noi abbiamo deciso praticamente a costo zero, avendo un budget proprio limitatissimo, di mettere insieme le nostre competenze musicali e di riunire, diciamo, una grossa famiglia di musicisti e di artisti sotto, diciamo, l'insegna di un progetto comune musicale. Recentemente avete avuto un riconoscimento nazionale, com'è andata? Abbiamo partecipato siamo stati selezionati per il premio De André quest'estate, abbiamo vinto una targa di Repubblica.it con una canzone un po' scomoda, quindi siamo felici per questo. C'è ancora chi parla un po' di tutto quello che va male in Italia, anche se in 3 minuti di canzone per parlare di tutto quello che va male in Italia, insomma, servirebbe un'enciclopedia più che un brano. Però parlando di terra dei fuochi, di italiani che non arrivano a fine mese, abbiamo colpito nel segno, siamo riusciti poi a calcare questo palco molto prestigioso. Abbiamo anche fatto il premio Musica contro le mafie a Cosenza qualche mese fa. Insomma, belle esperienze che ci arricchiscono e che ci fanno crescere. Ecco, in sottofondo già sentiamo le note di Crack, la vostra ultima fatica. Qual è il messaggio di questa vostra ultima esperienza musicale? Il messaggio è, i messaggi sono svariati, perché uno, vogliamo dimostrare che si può fare un prodotto competitivo a costo zero. Infatti, come vedete, abbiamo preso un piccolo teatro di un paesino di provincia e l'abbiamo allestito a spot. Con un semplice PC si può fare musica di alto livello, o di buon livello, poi alto livello dovrebbero essere gli altri a dirlo, però ognuno con le sue, diciamo, con le sue caratteristiche, alla fine poi viene fuori un prodotto che penso possa essere competitivo in questa regione, soprattutto nella nostra zona che è completamente dimenticata da tutti. Allora, Corrado, che dire, in bocca al lupo a tutti voi e grazie per essere stati con noi a Isola Bella. Grazie a voi, è un piacere. Concludiamo questa prima puntata di Isola Bella sulle note di Crack, l'ultima fatica dei Quattro Soldi. E quindi un arrivederci da Vincenzo Sottosanti a mercoledì prossimo alle 12.30, sempre su Rai Radio 1. Avete ascoltato Isola Bella, la Sicilia che piace nel mondo, un programma del coordinamento sedi regionali ed estere realizzato da RAI Sicilia in collaborazione con gli assessorati alle attività produttive, al turismo, all'agricoltura e ai beni culturali della regione siciliana. Ha condotto Vincenzo Sottosanti, direttore Salvatore Cusimano, assistente al programma Eliana Escheri. Appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 12.30 su Radio 1.